Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'omicidio del senza tetto Luca Tisi a Udine è decisiva per l'inchiesta, le immagini delle telecamere di sorveglianza che riprendono l'assassino. Nei prossimi 4 anni e mezzo in Friuli Venezia Giulia andrà in pensione 1 lavoratore su 9. In molti settori produttivi ci sarà dunque bisogno di nuovi addetti. A Lignano aperti i primi ombrelloni, anche se il meteo è incerto, frena i turisti. In primo piano c'è il nodo concessioni balneari. Chiude a Pordenone la fiera del radio amatore che si estende su 9 padiglioni con 200 espositori. Calcio in Serie A, l'Udinese cerca contro la Cremonese punti necessari per avanzare in classifica. In Serie C, con un finale al Cardiopalma, la Triestina vince 2-1 a Crema, evita la Serie D e raggiunge i play-out. Successo anche per il Pordenone, che arriva secondo e accede alla seconda fase dei play-off, promozione. Le 8:30 minuti e 15 secondi, buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di domenica 23 aprile. Come sempre in apertura diamo però uno sguardo al meteo con le previsioni per oggi. Il cielo è da variabile a nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 7. A Trieste e Udine ci sono 12 gradi, a Gorizia 10 gradi e mezzo, a Pordenone 11 gradi. A Piancavallo 6 gradi e mezzo, a Sappada 5 gradi, a Forni di Sopra 7, a Tarvisio 4, a Tolmezzo 9 gradi. Sul Monte Zoncolan 4 gradi, sul Monte Lussari 3 gradi e mezzo. Passando alla costa, a Lignano ci sono 14 gradi, a Grado 13. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo variabile su pianure e costa, maggiore nuvolosità in montagna. Nel pomeriggio saranno possibili delle piogge deboli o moderate sui monti, specie su Alpi e Prealpi Carniche. Soffrirà vento da sud, moderato più da sud-est sulla costa. Ancora in primo piano dunque la cronaca con le indagini sull'omicidio del senza tetto Luca Tisi a Udine. La questura ha diffuso le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno permesso di risalire all'identità di Bruno Macchi, il 28enne reo confesso del delitto, ma restano ancora da chiarire le motivazioni del gesto. È dall'incrocio di decine di ore di girato delle telecamere di sorveglianza pubbliche, ma soprattutto messe a disposizione dei privati, che gli investigatori della squadra mobile della Polizia di Stato sono riusciti a risalire all'identità di Bruno Macchi, il 28enne reo confesso del delitto del senza tetto Luca Tisi. Viene inquadrato mentre entra in galleria dei condomini Alpi, scarpe e maglietta bianca, pantaloni felpa scura. Luca Tisi stava dormendo pochi metri più in là, all'imbocco del tunnel. L'inquadratura cambia, è quella di un altro occhio elettronico. 4 minuti dopo aver ucciso Luca Tisi con un colpo alla testa e decine di coltellate inferte al volto con un coltello da sub, si vede Macchi uscire a piedi e dirigersi verso la roggia di Viale Volontari della Libertà e poi a casa in bicicletta. Nel corso dell'interrogatorio, l'indagato, che il giorno dopo il fatto si era tinto i capelli, non ha fornito ragioni logiche per il delitto, se non la necessità di liberarsi, di sfogarsi per tutto quello che ha passato nella vita. Abbandono parentale e un lungo percorso in comunità. Macchi, per il quale è stata confermata dal GIP la custodia cautelare in carcere per rischio di fuga e reiterazione del reato, non ha nessun precedente, non era seguito né dal SERT né dai servizi sociali. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca questa mattina: alle 4 a Udine è stato trovato privo di sensi in via delle scuole nel quartiere dei Rizzi una persona. L'allerta è stata lanciata da un passante che ha chiamato il numero unico di emergenza NUE 112. Gli infermieri della SORES giunti sul posto hanno trovato un uomo in arresto cardiocircolatorio e hanno cercato di rianimarlo senza però riuscirvi e decretandone poi il decesso. Sull'accaduto indaga ora la Polizia di Stato. Nessuna non conformità né carenza igienica nel centro cottura dal quale arrivano i pasti per la mensa delle scuole di Muggia affidate alla società Sodexo. È il primo risultato dell'analisi di Asugi per accertare l'origine dei malori che hanno colpito nei giorni scorsi 60 di bambini e personale delle scuole dell'infanzia e primarie di Muggia e di alcune paritarie di Trieste. Bambini e adulti ora stanno meglio, restano da definire le modalità di fornitura del servizio alla riapertura delle scuole mercoledì. Il sindaco di Muggia, Pierpaolo Polidori, ha chiesto alla società, nonostante la cucina abbia i requisiti per operare, di predisporre un piano alternativo che prevede il ricorso a un altro centro cottura. Il mondo del lavoro ora: nei prossimi 4 anni e mezzo in Friuli Venezia Giulia andrà in pensione 1 lavoratore su 9. In molti settori produttivi ci sarà dunque un ricambio e bisogno di nuovi addetti. A fare i calcoli è uno studio della CGA di Mestre. L'agricoltura, l'industria del legno, le banche, i servizi, ma anche la pubblica amministrazione e le scuole, con personale docente e non. Entro il 2027 in Italia ci sarà una diaspora dal lavoro a causa dei pensionamenti e questo riguarderà la nostra regione esattamente come il resto del paese, se rimarranno vigenti le regole attuali. A lanciare l'allarme è la CGA di Mestre, che ha elaborato i dati di Unioncamere. In Friuli Venezia Giulia, nei prossimi 4 anni e mezzo, un lavoratore su 9 lascerà il suo posto, 65.000 persone che per raggiunti limiti di età o anzianità andranno in quiescenza. Un numero enorme che avrà un impatto fortissimo sui conti pubblici ma anche sul mercato del lavoro, che richiederà in meno di 5 anni ben 91.500 addetti. Oltre a quelli che andranno in pensione, 26.500 nuovi ingressi legati alla crescita economica prevista nel quinquennio. Nel comparto manifatturiero, ad esempio, a subire l'esodo più significativo saranno l'industria del mobile, della carta, del tessile e dell'abbigliamento. Entro il 2027 nel comparto dei servizi i più investiti saranno commercio, servizi generali della pubblica amministrazione e istruzione. Per le aziende, ma anche per lo Stato, trovare lavoratori qualificati e non, secondo la CGA, sarà sempre più difficile, visto il gradino demografico. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Weekend di sole a Lignano per l'avvio informale della stagione. L'inflazione si fa sentire sui prezzi degli ombrelloni e degli alberghi, mentre torna in primo piano il tema delle concessioni balneari. Fino a pochi giorni fa c'erano ancora le dune sulla spiaggia di Lignano. Ora molti ombrelloni sono già a disposizione degli amanti del sole di mezza stagione. Noi arriviamo adesso sempre ad aprile, appena c'è un po' di sole, andiamo in spiaggia. E poi andiamo via proprio quando va via l'ultimo tedesco. Qui la maggior parte delle concessioni è in proroga, come nel resto d'Italia. La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha ribadito il concetto: se il bene è scarso va messo a gara. E a Lignano molti balneari sono a favore del bando, entro certe condizioni. Salvatore Sapienza, sindacato balneari italiani. C'è un grande caos, ci vuole una serietà, ci vuole dare una prospettiva a chi investe e serve essere chiaramente rispettosi di quelle che sono le direttive europee. Aumenti dal 4 al 9% per sdraio e ombrelloni in Friuli Venezia Giulia, eppure ristoranti e bar hanno dovuto ritoccare listini. Qualcosa bisogna aumentare, si cerca comunque di portare una qualità giusta al prezzo giusto. In attesa delle festività austriache, a Lignano gli alberghi pagano in questo ponte il maltempo previsto per lunedì e martedì. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi farà il suo ingresso solenne in diocesi il nuovo vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi. Alle 14.45 incontrerà famiglie, bambini e ragazzi della diocesi al Santuario Mariano di Monte Grisa. Alle 15.20 partirà dal Tempio alla volta della Cattedrale di San Giusto, dove alle 16 verrà accolto dal suo predecessore, Monsignor Crepaldi. Quindi, dopo il solenne ingresso in cattedrale, Trevisi presiderà la Santa Messa, durante la quale terrà anche la sua prima omelia. La cattedrale sarà aperta ai fedeli dalle 15, mentre all'esterno sarà posizionato un maxischermo per assistere alla celebrazione con 400 posti a sedere. In occasione della cerimonia, Trieste Trasporti attiverà una corsa speciale fra Piazza Oberdan e San Giusto, che partirà alle 15 e transiterà per via Ghega, via Roma, via Mazzini, riva 3 Novembre, via del Mercato Vecchio, via dell'Orologio, via del Teatro Romano, Corso Italia, via Pellico, piazza Sansovino, via Capitolina, San Giusto. Al ritorno la corsa partirà da San Giusto alle 18. A Pordenone chiude i battenti la Fiera del Radioamatore, manifestazione di rilievo nazionale per l'elettronica di consumo e l'informatica low cost, che è arrivata quest'anno alla sua 57esima edizione. Lei da dove arriva e che cosa ha acquistato? Da Napoli e ho acquistato un mini computer su commissione. Il mondo degli appassionati dell'elettronica è riunito in fiera a Pordenone per la 57esima edizione di Radio Amatore, che conta su 9 padiglioni e 200 espositori. Sono un appassionato radioamatore, diciamo, ho costruito diverse radio e soprattutto sono un costruttore di modellini anche di radio. Dall'analogico all'intelligenza artificiale. Gabriele Gobbo è coordinatore dell'area tecnologica. Abbiamo addirittura i Macintosh vecchi, tra i primi Mac e il robot, e la gente fa la fila per capire come la tecnologia si è evoluta in 30 anni. Siamo passati davvero da dover fare le cose alle cose che fanno i robot e le macchine. Novità di quest'anno, l'esposizione è dedicata ai motori d'epoca. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. In Serie A l'Udinese sarà impegnata alle 15 allo Stadio Friuli contro la Cremonese. Sentiamo le parole dell'allenatore Andrea Sottil nella conferenza della vigilia. Questa squadra dall'inizio dell'anno è sempre stata alla parte sinistra della classifica, cosa che non capitava da tantissimi anni. E quindi l'obiettivo è quello lì, l'obiettivo è di finire più in alto possibile. più in alto possibile, e di conseguenza è chiaro che devi stare dalla parte sinistra del campionato. Più che altro penso che dobbiamo ritornare a finire in crescendo, questo è quello che ho detto ai ragazzi, in crescendo e giocare con più spregiudicatezza, perché mi permetto di dire che sta passando che questa squadra sta facendo un campionato bruttissimo, ma a me non sembra. Quello che io invece dico è che noi dobbiamo ritornare a fare, batto su quel punto lì, una prestazione che noi sappiamo fare, tipo Milan, tipo Empoli, tipo Atalanta, parlo delle ultime, con continuità nei 100 minuti, cioè stare sempre ad un certo livello per tutti i 100 minuti. E quando parlo di questo parlo di tutte le fasi di gioco. Nell'ultima giornata della stagione regolare in Serie C1 la Triestina batte in pieno recupero la Pergolettese per 2-1 e raggiunge così i play-out contro il San Giuliano dopo aver rischiato seriamente la Serie D. Il Pordenone chiude al secondo posto grazie all'1-0 contro l'Albino Leffe e passa direttamente alla seconda fase dei play-off promozione. All'inferno e ritorno in 10 minuti e con le coronarie dei tifosi ancora una volta l'ennesima repentaglio. La Triestina agguanta i play-out al 94esimo quando la retrocessione tra i dilettanti pareva ormai assodata e forse addirittura meritata. Dopo una partita con tante occasioni, ritmi alti e buchi difensivi dove il portiere Matošević è stato il migliore in campo, a Crema la squadra di Gentilini era costretta alla vittoria per evitare la discesa in Serie D diretta, stante anche i risultati degli altri campi dove il Piacenza ultimo vinceva contro il Vicenza. La situazione sembrava disperata anche perché con la quintultima c'erano 9 punti di distacco e quindi non sarebbe bastato un pari neanche se il Piacenza avesse perso. La Triestina all'80esima è andata addirittura sotto, sbilanciatissimi in avanti e con tutti gli attaccanti in campo. Felici perde Saccani, azione personale dell'esterno della Pergolettese, e 1-0. A quel punto serviva un miracolo e l'Unione si è accesa con la forza di chi ormai non aveva più nulla da perdere. Ci ha provato a ripetizione e l'88esimo è arrivato il pari su una deviazione vincente di Felici. Nei successivi 8 minuti, recupero compreso, la squadra di Gentilini ha tirato verso la porta di Soncin ben 6 volte. Ci sono andati vicini a Dorante e 2 volte Minesso, che al 94esimo si è visto deviare in corner una botta senza pretese da fuori. Sul calcio d'angolo il portiere lombardo è uscito malissimo e a Dorante l'ha anticipato, proprio sotto la curva ospiti dove, un po' con gli ardicamenti, i tifosi della Bardati avevano scritto uno striscione «Segnare qui». Palla in rete, delirio in campo e Triestina addirittura 18esima, al doppio spareggio per non retrocedere affronterà il San Giuliano milanese. Sorpresa positiva anche a Fontanafredda, il Pordenone batte 1-0 l'Albino Leffe, gol di Pinato al 47esimo e chiude addirittura al secondo posto il girone evitando un turno playoff e avendo il fattore campo a favore fino all'eventuale finale, da definire avversario e data. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo al basket. In Serie A1 la Pallacanestro Trieste è reduce da una settimana complicata per la sospensione in via cautelare per doping di Davis, giocherà in trasferta a Varese alle 17 con in palio punti decisivi per la salvezza. E l'incontro sarà a Pesaro. In A2 nel girone blu per la pool promozione la Pudine sarà di scena alle 17 sul parquet di Piacenza, mentre Cividale giocherà in trasferta contro l'Urania Milano. In Serie A2 femminile successo della Delserudine contro Brioni per 68-54. Questa sera la futurosa Trieste giocherà alle 19 all'Allianz Dome contro Ponzano Veneto. Pallanuoto, la regular season si chiude con una ininfluente sconfitta per Trieste nella 13ª e ultima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile alla Bruno Bianchi. I giuliani sono stati superati da Brescia per 5-14 e ora la squadra giuliana si prepara a disputare gli spareggi per l'accesso all'Eurocup. Pallavolo, la vittoria nell'ultima giornata di pool promozione contro Busto Arsizio ha permesso alla CDA Talmassons di disputare anche quest'anno le semifinali playoff promozione. L'avversario che le ragazze di coach Barbieri dovranno affrontare in trasferta sarà l'Itas Trentino, classificata al secondo posto in campionato. Si gioca alle 17, gara 1. Si disputa questa mattina la Muia Longa sul Mar, storica gara di corsa organizzata a Muggia, valida come seconda prova del trofeo Trieste che assegnerà i titoli regionali della 10 km su strada che celebra quest'anno il 20° anniversario. Alle 9.30 il via alla 10 km, gara competitiva che partirà dal piazzale Lodovico Salvatori. I partecipanti correranno sul lungomare mugesano per poi entrare per il giro di boa all'interno della base logistica militare del Lazzaretto e successivamente fare ritorno verso l'arrivo. Alle 11 partirà la Family Coral Run di 5 km. Gli iscritti, accompagnati dalla musica dei gruppi e delle band invitate, partiranno dalla strada di Lazzaretto, vireranno all'altezza del Colombo a Bice per poi fare ritorno fino al traguardo in Piazzale Salvatore. Una 3 giorni di vela animerà da oggi a martedì 25 aprile Lignano Sabbia d'Oro per la 48esima edizione della regata dei due golfi, valida per la selezione nazionale al campionato italiano assoluto, con velisti da tutta Italia e dall'estero. In mare ci sarà anche Capita, il day sailor accessibile ai disabili, unico al mondo nel suo genere. Appuntamento alle 9.30 con il briefing in piazzetta Marina Puntafaro, mentre a mezzogiorno si svolgerà la prima prova tecnica. E alle 8.44 minuti e 30 secondi cominciamo la rassegna stampa dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Spiaggia no smoking, a Trieste il primo stabilimento non fumatori, gelati per i cani, nel weekend le aperture a Grado e Lignano. Così le spiagge si preparano al via della stagione, ma è corsa contro il tempo. Oggi a San Giusto si insedia il vescovo Trevisi portando il nuovo stemma sulla cattedrale, l'ingresso in diocesi con tappe a Montegrise e San Giusto, l'opera firmata dall'artista Marcucci. Lista di piazza, vertice sulla crisi, Russo del Partito Democratico attacca e dice alleanza ormai finita. A centro pagina la fotonotizia con la parata di Re Carnevale, pienone in centro, il sole ha baciato il sabato del ponte del 25 aprile, sold out negli hotel, alla sfilata sulle rive di Re Carnevale, partecipanti pure da altre regioni, le maschere in corteo, i giocolieri e la mostra folla di turisti e triestini per le vie del centro. E poi il calcio con l'Unione che strappa i play-out proprio in extremis e scocca l'ora della muia longa in 2000 di corsa sul lungomare. Il report della CGA, la Confederazione Generale Italiana Artigianato, sui prossimi pensionamenti apre il Messaggero Veneto, che dà spazio anche all'omicidio del senza tetto Luca Tisi. C'è poi l'appello della Procura di Udine per la segnalazione di movimenti sospetti a fronte dei numerosi furti compiuti che si sospettano dovuti a una coppia di gemelli albanesi. L'edizione di Udine del Messaggero in fotonotizia si occupa delle iniziative per la giornata della terra, ieri in calendario. C'è poi un servizio sull'avvistamento di un orso in carnia sul sentiero che da Lovea conduce al rifugio Palasecca. Anche il Gazzettino nell'edizione di Udine apre sui prossimi pensionamenti, dando spazio alle centinaia di posizioni aperte sul sito della regione, dai marmisti agli idraulici. Spazio anche ai corsi del Civiform, che consentono qualifiche in più settori, dalla ristorazione alla disinfestazione. In fotonotizia le preoccupazioni per le poche piogge in montagna che si ripercuotono sul livello del tagliamento, inferiore alla media degli ultimi 20 anni. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone. Leggiamo: il bar per cani in spiaggia nel weekend, le prime aperture a Grado Lignano, anche se la stagione partirà a maggio. Nel capocronaca di Gorizia, ritorno allo studio, premi alle scuole serali, le esperienze degli studenti che frequentano i corsi di Viale Virgilio. C'è anche chi riprende dopo aver mollato oppure cambia specializzazione. In classe entra Giovanni, ho 69 anni e al volo colgo questa possibilità. Assunzione di 15 infermieri per gli ospedali dell'Isontino, pochi al San Giovanni di Dio e al San Polo rispetto agli operatori sociosanitari. In arrivo 4 collaboratori esterni per i turni nei pronto soccorso a 70 euro all'ora. E poi dalla Piazza dei Fiori un aiuto ai progetti sull'autismo e sull'età evolutiva. Migliaia di persone hanno affollato il centro di Monfalcone, iniziative di solidarietà per le associazioni Voi Come Noi e Dinamici. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto dà conto della partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle commemorazioni del prossimo ottobre per il 60° anniversario del disastro del Vajont. C'è poi un reportage sulla gara di diritto internazionale umanitario che si è tenuta al Parco San Valentino. Gli allievi del liceo Leopardi Maiorana parteciperanno alle finali di Roma in maggio. Per la cronaca giudiziaria, l'ampliarsi dell'inchiesta sulla morte sul lavoro di un operaio alla Bioman di Magnago lo scorso marzo. I nomi nel registro degli indagati sono ora saliti da 4 a 11. L'edizione di Pordenone del Gazzettino dà conto della vicenda dei due stranieri sgomberati dalla casa di Via Barcis che avevano occupato in modo abusivo perché, loro dicono, pur avendo un lavoro erano rimasti senza dimora. La figlia del proprietario, pur confermando la denuncia di occupazione per non creare precedenti, ha offerto loro di pagare un affitto. Spazio anche al progetto per la rotatoria di Porcia lungo Viale Venezia, il cui bando per il cantiere sarà lanciato la prossima primavera. Dai giornali nazionali, il Corriere della Sera, nella sezione Cultura, pubblica una pagina firmata da Claudio Magris sul libro scritto da Don Mario Vatta, presentato a Trieste lo scorso marzo. Ancora qualche appuntamento prima di chiudere. A Villa Trigatti e Galleriano di Lestizia inizierà alle 9.30 l'edizione primaverile di Amo Essere, la fiera dedicata al benessere di corpo e mente, che offrirà al pubblico una rassegna di prodotti per il nutrimento del corpo e il benessere della mente, per il tempo libero, per l'ambiente, sport e molto altro. Alle 18 torna Udine al Teatro San Giorgio, What We Are, piattaforma di danza contemporanea per autori e interpreti promossa dall'Associazione Danza e Balletto. L'iniziativa nasce per dare visibilità alla ricerca di coreografi e danzatori. Si rinsalda il rapporto tra la comunità di Casarsa della Delizia e quella di Idria, legate alla figura di Pierpaolo Pasolini, che nella cittadina slovena visse tra il 1930 e il 1931 con la famiglia. Una delegazione di Idria sarà ospite oggi del comune della Pro Casarsa della Delizia. Al centro della visita la partita amichevole con le vecchie glorie alle 10.30 al polisportivo comunale. Alle 17.30 è prevista l'esibizione della banda. Segnaliamo che sul canale televisivo Rai 3 oggi alle 9.15 sarà in onda The Show Must Go On, il format televisivo di un reality di didattica musicale avanzata da Marco Maria Tosolini, a lungo docente al Conservatorio Tartini di Trieste, per la regia di Mario Mirasola. Testimonial d'eccezione l'attore Alessio Boni. Per i programmi radiofonici alle 9.15 seconda puntata di Intrighi e Passioni, Giacomo Casanova fra Trieste e Gorizia, originale radiofonico di Giuliana Stecchina, regia di Stefania De Maria. La programmazione televisiva regionale alle 9.15 su Rai 3 propone ILIM, International Lessons for Young Musicians, di Marco Maria Tosolini, per la regia di Mario Mirasola. La sesta puntata, conclusiva del ciclo di lezioni, intitolata The Show Must Go On. E alle 8.50 minuti si conclude così questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Vassia, Chris Mancic e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Ora la rubrica Vita nei Campi, prossima appuntamento con il GR alle 12.15. Grazie dell'attenzione e buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.